Ma se non mi cogli in tempo cado a terra e maciro, sono spina e me ne sto nel muro. Ma non servo a niente se tu non mi dai elettricità. Che è successo non lo so, che m'hai fatto non lo so, so soltanto che se te ne vai io morirò. Che è successo non lo so, che m'hai fatto non lo so, so soltanto che se non ci sei io morirò d'amore. Io morirò d'amore, naena, io morirò d'amore, naena. La mia vita pende giù da un filo, e quel filo è dipendente dall'amore tuo per me. Se pesassero il mio cuore al chilo, scoprirebbero che pesa esattamente come te. Che è successo non lo so, che m'hai fatto non lo so, so soltanto che se te ne vai io morirò. Che è successo non lo so, che m'hai fatto non lo so, tanto che se te ne vai non torni, io rimango qui ad aspettarti, ma fino a quando, e poi io morirò d'amore, io morirò d'amore, io morirò d'amore, na na na na, na na na na, na na na na na na na na na. Signore e signori, buonasera, sono le ore 17:06 prima di Marco Tagliaboschi in diretta per questo pomeriggio da trascorrere insieme. Siamo al 29 gennaio, ultimi giorni del mese di gennaio, praticamente è volato in men che non si dica, è volato veramente, bisogna dirlo, questo mese molto velocemente. Sarà stata la prima parte dedicata alle feste, sarà stato che siamo tornati al lavoro senza neanche, come dire, accorgercene, insomma, però ci ritroviamo a fine mese e praticamente è un altro mese che è trascorso. Vi ricordo che potete tranquillamente ascoltarci anche tramite il nostro sito internet www.radioernica.com. La nostra posta elettronica è ernica@libero.it, il nostro numero di telefono è lo 0775 726 546. Detto questo, diamo subito inizio un po' a almeno ad un'occhiata molto generica ma necessaria alle prime pagine di oggi. Voi sapete che noi nel pomeriggio facciamo un po' il punto della situazione, anche delle notizie. Allora, una rapina da film, due banditi simulano un incidente per fermare il camion di un commerciante, il conducente minacciato con una pistola è stato derubato di denaro e cellulare. Rapina a mano armata, come la scena di un film, all'alba di ieri un commerciante di Ferentino in transito con il suo camion lungo via Stella Torre Noverana si è trovato di fronte a uno scooter e due giovani diversi a terra. Appena si è avvicinato per prestare soccorso, uno gli ha puntato una pistola facendosi consegnare il denaro, il cellulare e le chiavi del mezzo. A Latri molti servizi si scioperano nonostante comune e società abbiano siglato un accordo in serata. Ieri ad Alatri i lavoratori della multiservizi hanno confermato lo sciopero. Verifica programmatica invece sempre a Frosinone, il PSI punta i piedi e replica duramente il resto della maggioranza. Non hanno capito la portata delle nostre richieste, così il capogruppo del PSI Conigno replica il resto del centrosinistra che ha criticato la bocciatura rifilata dai socialisti al programma di fine consiliatura. Regionali. bufera nel PDL per le pretese della Daguanno. Di legge lascia il comitato regionale del partito. L'autocandidatura della Daguanno al consiglio regionale provoca un terremoto di reazioni tra le donne del PDL Ciociaro. La di legge lascia il comitato regionale del partito, mentre sperano Dorazio e Ceccarelli. Queste sono un po' le notizie flash che abbiamo avuto modo di vedere da subito sulla prima pagina di Ciociaria Oggi. Entreremo nelle questioni ovviamente approfonditamente, in maniera molto approfondita. Era il caso che praticamente almeno si desse un'occhiata generale a praticamente i fatti del giorno. Vediamo anche un'ultima ora delle 17:04. Dunque l'Aquila consegna di Bertolaso a Chiodo, e questo è il tempo giusto per passare alla seconda fase. Noi come Protezione Civile abbiamo concluso la nostra missione, consegno quindi all'amico Chiodi una fiaccola ardente che può scaldare ma anche un po' bollente, che può bruciare. Così il capo della Protezione Civile Bertolaso stamane nella caserma della Finanza Coppito per il passaggio di consegne al neocommissario delegato per la ricostruzione post sisma. Il presidente della regione Chiodi dice: questa squadra ha fatto un buon lavoro, ha concluso Bertolaso. Quindi le chiavi, diciamo così, metaforicamente, della organizzazione dei soccorsi, dell'organizzazione della ricostruzione e di quant'altro è ancora necessario all'Aquila, ovviamente, come è giusto, passano dalla Protezione Civile nelle mani del Presidente della Regione, che evidentemente è stato nominato anche commissario per definire tutto quello che ancora c'è da definire in ordine alla ricostruzione. Bene, io direi fermiamoci un attimo qui, abbiamo varie testate, abbiamo anche una testata che praticamente esce anche qui da noi, ma è una edizione della Valle dell'Aniene, Nord Ciociaria, Colleferro e Anagni, si chiama World News ed è un periodico territoriale di informazione gratuita. La testata dice: tiratura circa 10.000 copie, e il direttore è Antonio Mariozzi, una vecchia conoscenza, anche perché lavora anche alla provincia ed è anche responsabile, o almeno lo era, dell'ANSA a livello locale. Bene, il settimanale, credo che sia un settimanale o un mensile, titola Sfida 3 per la Regione. C'è da dire che questo giornale è un po', come dire, la voce dell'avvocato Carlo Taormina, nel senso che riflette di molto le posizioni politiche dell'avvocato Taormina. Allora dice: sfida 3 per la Regione, si vedrà il 28 e 29 marzo per eleggere un nuovo Consiglio regionale del Lazio dopo lo scandalo che ha travolto l'ex governatore Marrazzo, portando allo scioglimento anticipato l'Assemblea della Pisana. Sfida 3 per la Presidenza della Giunta regionale, in corso ci sono Renata Polverini, Emma Bonino e il noto penalista Carlo Taormina della Lega Italiana, che in questi giorni ha stretto un accordo con il movimento ambientalista Fronte Verde. Tre nomi pesanti per la poltrona di Presidente della Regione Lazio. La campagna elettorale si annuncia agguerrita, i cittadini del Lazio saranno chiamati alle urne per eleggere 70 consiglieri regionali, di cui 56 eletti con liste circoscrizionali e 14 con il sistema maggioritario, cioè il listino collegato al Presidente. A Roma andranno 41 seggi, 5 ciascuno alle province di Frosinone e Latina, 3 a Viterbo e 2 a Rieti. Quindi questa è la pagina di apertura di questo World News, e l'avvocato Taormina, di centrodestra tra l'altro, che però ha dato vita a questa lista civica o quant'altro, Lega Italia se non sbaglio, rischia anche di far perdere qualche voto alla Polverini. Quindi se dovesse esserci proprio una battaglia sul filo di lana, l'avvocato Taormina rischia di essere sicuramente il terzo incomodo. Bene, state ascoltando Radio Ernica, restate con noi sintonizzati naturalmente. Marco Tagliaboschi ad augurarvi la buona serata. another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running round. She wasn't just another woman, couldn't keep from coming on. Been so long. Oh, and it's a hollow feeling when it comes down to dealing friends. It never Radio Ernica da Anagni, telefono 0775 72 65 46. Per renderti la vita più facile, per chi come te ha così poco tempo a disposizione, c'è chi con capacità, professionalità e preparazione risolve tutti i tuoi problemi e quelli della tua auto. Centro Servizi Caruso, di Valentina Caruso ad Anagni, Osteria della Fontana, via San Giuseppe. Visure al Pra, certificati, camera di commercio, pagamento bollo auto, servizi amministrativi, trasferimenti di proprietà, immatricolazione di veicoli nuovi, rinnovo patente con medico in sede il giovedì, duplicati della carta di circolazione. Centro Servizi Caruso di Valentina Caruso, Agenzia Pratiche Auto, ad Anagni, Osteria della Fontana, via San Giuseppe. Telefono 0775 769388. Ti aspettiamo. Le donne non l'ho mai sentite dire: stasera, caro, no, voglio dormire. Siete sempre disposte, o con l'amica o con qualche altra cosa che vi brucia. Tu poi pretenderesti la seconda, che è un po' come i cavoli a merenda. E non te lamenti che l'ho fatta una, ma sono le 5, ho cominciato a luna. Io penso che una fatta bene è meglio che 10 bottarelle da coniglio. Capisco che facessi una svertita, ma sono 4 ore e c'ho il mal di schiena. Solo un minuto fa parevi morta e mo già mi stai addosso un'altra volta. Se mi lo straccio, guarda dallo specchio e levami sta lingua dalle orecchie. Me devo riposare 3-4 mesi e se no te giuro andiamo a finire in crisi. Aspetta dei periodi di astinenza e levami sta coscia dalla panza. Ancora le tue amiche stai a sentire, con sti mariti sempre a fare l'amore. Ancora credi allora che vuole fate, ma non te ne far dire certe stronzate. Perché i mariti sono amici miei e ognuno si lamenta della sua. Che come te può fare sempre una cosa e sti poracci scappano di casa. Con chi si sfogheranno sta signore? con le bugie che vanno a raccontare. Quando un marito è fuori, in quel momento cominciano a scopare, ma è pavimento. E lui ricomincia a parlare di Nino, che ne faceva 4-5 almeno. Non tira in ballo quello di Livorno che ha vinto un premio, 12 in un giorno. Una volta tanto fa la donna seria, mia fa male una boccata d'aria. Adesso almeno fa quello che dico, non spigne che mi sfondi in un brico. Dici che per sentirti realizzata te devi fare ogni tanto una scoperta. E io condivido, giuro, ma ogni tanto, non una adesso e una fra un momento. Sembra che c'hai 200.000 mani, 3 bocche, 10 lingue e 6 polmoni. Io ho fatto più di quanto mi è dovuto, 4 ore esatte a 1, e mica è venuto. Stanno io due, con sti maschioni arzilli, tutti con loro stanno lì mandrilli. La prima è per diritto coniugale, ma la seconda, crede, mi fa male. Domani per salvarmi dal tuo assedio, nascondo qualche amico nell'armadio e te lo tiro fuori al tempo giusto. Così io mi addormento e tu stai a posto. Anzi, per te che non ci metti manco amore sarebbe sufficiente il vibratore. Per una che ne fa la malattia, st'idea che famo, la buttavo lì. 2009, e il resto è un fatto tuo, purché a due passi dal culetto mio. Sta lingua non si ferma manco morta, e mi è venuta voglia l'altra volta. Ma dico, prima che ricominciamo, a sta scopata che valore diamo? Tu dici è la seconda di ieri sera, così stanotte gli diamo ancora, e no? Ne famo una per nottata. Questa è la prima, fatta anticipata. È inutile che fai queste strane facce, ma va, non mi fa dire parolacce. Non voglio che da me un giorno si dica, eroe del sesso, cadde sulla fine. Queste sono delle licenze poetiche, chiamiamole così, di Franco Califano, un grande lupo della canzone italiana, un grande personaggio in tutti i sensi, insomma si può discutere, si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo su quello che lui dice e fa, ma insomma sempre un grande personaggio rimane. Allora entriamo un po' praticamente dentro le notizie. Intanto subito la prima notizia, il presidente della provincia Iannarilli può restare al suo posto, anzi ai suoi posti. L'altro ieri infatti la giunta delle elezioni della Camera dei Deputati, su proposta del Comitato Permanente per le incompatibilità e le ineleggibilità e le decadenze dei parlamentari, ha approvato a maggioranza la compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco di comune e di presidente della provincia. Quest'ultimo è proprio il caso di Iannarilli, che è parlamentare dal 2006 e che dal giugno dello scorso anno si ritrova ad esercitare il duplice incarico di deputato e presidente della provincia, tanto che a più riprese dai banchi dell'opposizione della provincia era stata praticamente evidenziata questa incompatibilità. Un punto sciolto ora definitivamente dalla giunta delle elezioni della Camera con il via libera ai doppi incarichi. Tra l'altro in questo contesto non è che ci fosse solo il presidente Iannarilli, ma il provvedimento riguarda anche presidenti, pensate, di altre 7 amministrazioni provinciali, che sono Maria Teresa Armosino di Asti, Luigi Cesaro di Napoli, Edmondo Cirielli di Salerno, Daniele Molgora di Brescia, Ettore Pirovano di Bergamo, Roberto Simonetti di Biella e Antonio Pepe di Foggia. Quindi non c'è incompatibilità e quindi praticamente può rimanere in carica come presidente e può anche restare a fare il parlamentare. Allora, Scalia che chiama in causa la giunta di Iannarilli, una rivendicazione e un'accusa. Scalia sottolinea la differenza di trattamento riservata alla giornata della memoria dalla sua amministrazione e quella del suo successore Iannarilli. Trasmette il profondo valore civile della giornata della memoria nelle giovani generazioni e rinnovare il ricordo di una strage che non ha attenuanti né alibi è un dovere delle istituzioni, oltre che di ogni cittadino, rimarca l'assessore regionale all'indomani delle celebrazioni del 65esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. La provincia di Frosinone non è sempre stata sollecita nell'avvicinare i giovani e le scuole alla verità storica dell'Olocausto, rinnovando l'indignazione morale e civile nei confronti di una tragedia senza eguali mossa dalla ideologia nazifascista. Da qui la sua accusa al giunta Iannarini. Negli ultimi 3 anni, ha affermato l'ex presidente della provincia, abbiamo bandito 3 diversi concorsi didattici sul tema della Shoah, a cui hanno partecipato tutti gli istituti superiori provinciali con oltre 500 progetti tra individuali e di gruppo. Sono stati scelti i lavori migliori ed ogni anno oltre 150 ragazzi hanno avuto modo di vedere personalmente i luoghi dell'orrore. La provincia di Frosinone infatti ha finanziato dei viaggi studio ai campi di concentramento di Auschwitz e Dachau e al Museo della Memoria di Berlino. Con rammarico, conclude Scalia, prendo atto che la nuova amministrazione provinciale non ha voluto dare seguito a queste attività. Spero tuttavia che saprà, seppure in forme diverse, dar comunque seguito a quanto è stato finora fatto. Quindi, come dire, una critica neanche tanto velata alla mancanza di iniziative provinciali per il giorno della memoria. De Angelis e Boschini hanno presentato ieri l'associazione presieduta da Di Cosimo, un ponte di collegamento tra gli enti locali e l'Europa, ma anche un punto di riferimento e un centro di idee per la gente. Queste le finalità con cui è nata l'associazione Europa Democratica, presentata ieri mattina dall'europarlamentare Francesco De Angelis, che nella sede dell'associazione al civico 12 di Piazza Fiume ha i propri uffici. Al suo fianco il presidente della neonata associazione Giampiero Di Cosimo ed il segretario provinciale del PD Mauro Boschini, in questi giorni impegnato nel suo tour elettorale. Un modo per far sentire l'Europa più vicina e rafforzare il legame tra le istituzioni europee e le autorità locali, ma anche con i cittadini. È importante che questi ultimi si rendano conto delle enormi opportunità che l'appartenenza all'Unione Europea comporta, ha spiegato De Angeli. Essere in Europa oggi si dischiude enormi possibilità e dobbiamo essere in grado di sfruttarle anche attraverso l'appoggio della gente, alla quale vogliamo rendere più chiari ed accessibili certi meccanismi. A fargli eco Giampiero Di Cosimo, che ha sottolineato la volontà di essere un punto fermo per quanti vogliono approfondire le tematiche relative al funzionamento delle istituzioni comunitarie, ai progetti di finanziamento, alle tante possibilità, insomma, che l'Europa offre ai suoi cittadini. L'associazione, a disposizione di amministratori, enti e cittadini, si offre come strumento di sostegno e conoscenza, ma vuole anche raccogliere pareri ed idee per far sì che questo ponte verso l'Europa sia sempre più solido e facilmente percorribile. C'è Maretta anche nel PDL e vediamo perché si sgomita nel PDL Ciociaro. All'ombra delle quote rosa, la possibilità di eleggere una donna nel listino collegato alla candidata presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, stimola più di qualche appetito anche per chi deve ancora dimostrare di possedere i numeri necessari per poter strappare la candidatura in rosa. La corsa ad un seggio tutta femminile nell'emiciclo della Pisana scaturisce dalla legge elettorale in vigore che, per quanto riguarda la lista che si elegge con il sistema maggioritario, il cosiddetto listino, appunto, riserva la metà dei 14 posti disponibili al genere femminile. Uno spazio rosa in cui subito qualcuna delle pretendenti ha provato a tuffarsi. Ciociaria Oggi naturalmente parla così in terza pagina, non è firmato l'articolo, già era stata ampiamente criticata la Annalisa Daguanno, quindi si desume che questo sia il pensiero del direttore responsabile e dell'editore. La fuga in avanti più clamorosa e più imprudente è l'attentato del consigliere comunale Cassinate Annalisa Daguano, eletta nel giugno scorso anche in consiglio provinciale, che in barba alle trattative sugli equilibri politici e territoriali circa la futura rappresentanza locale alla Regione Lazio è partita in quarta con manifesti e incontri elettorali che non lasciano dubbi sulla sua aspirazione, che però ad oggi resta tale, una mera aspirazione appunto, tanto più che la sua imprevedibile uscita allo scoperto ha già generato un primo importante strappo. Si è preso infatti che nei giorni scorsi l'esponente fiorentinata del PDL, Alessandra Di Leggio, con una lettera inviata al coordinatore regionale del partito, Vincenzo Piso, ha rimesso il suo mandato in seno al comitato regionale del PDL Lazio, di cui era membro in quota alla componente ex alleanzina vicino al senatore Andrea Augello e sponsorizzata a livello locale dal senatore Tofani, che nel corso della campagna elettorale provinciale nulla ha fatto per portare acqua al mulino del PDL. Raggiunta telefonicamente, la stessa si è rifiutata e rifugiata dietro un laconico no comment. Fedele al suo stile, non ha inteso alimentare contrapposizione con la Daguanno. Da fonti romane però emerge che la sua missiva al coordinatore regionale del PDL fa riferimento proprio all'autocandidatura della Daguanno, ritenuta poco consona rispetto a criteri di scelta politici e territoriali. Quindi questa è un po' una grana che probabilmente ci sarà modo di risolvere nei prossimi giorni, anche perché credo che il problema non sia tanto quello di una manifestazione di una quota rosa all'interno di una lista praticamente per la maggior parte composta di uomini, ma credo che sia soprattutto, come al solito quando si tratta di politica, una battaglia di visibilità. Buon ascolto ancora, Marco Tagliaboschi, buona serata a voi tutti da Radio Ernica. Che ha, è tardi già, devi rientrare, giocare adesso non puoi, sabato prossimo poi ti verrò a prendere ancora, ti insegnerò una nuova canzone, sarà divertente, vedrai, ti comprerò buone, ti porterò dove vuoi, adesso basta però, dammi un bel bacio e sorridi un po', io non vorrei. Chiamami dai, anche domani, amo parlare con te, anche se tu per ogni cosa mi chiedi sempre perché, non domandarmi però se tornerà come prima, questo non lo so. Più yeah. Perciò cuore mio, meno male che ci sei tu. Bene, siamo tornati insieme ancora, 17 e 40 minuti primi, ancora notizie, c'è un'ultima ora delle 17.36, donna coltellata, fermato il figlio. Aveva tentato di coprirlo dichiarando agli agenti di essere stata aggredita da uno sconosciuto vicino all'ingresso del suo palazzo, ma gli agenti hanno fermato il figlio della donna. L'aggressione è avvenuta ieri sera a Roma in viale Giotto. Il giovane avrebbe aggredito la madre colpendola ripetutamente con un coltello al termine di una cena di riconciliazione a casa della donna. La vittima, che ha precedenti per spaccio, da mesi litigava con il figlio per la continua richiesta di denaro. Beh, non è il primo caso, purtroppo non sarà neanche l'ultimo, che queste vicende di droga trascinano le famiglie in un baratro, e questo è appunto l'ultimo caso di una lunga serie. Andiamo a vedere ancora notizie. La Regione Lazio ha stanziato la somma di 1.600.000 euro a beneficio di 10 comuni della provincia di Frosinone. Un attimo allora, e vediamo allora insieme quali sono questi comuni. Il finanziamento che rientra nell'esercizio finanziario 2009 della Regione riguarda i comuni di San Giovanni in Carico, Pastena, Rocca d'Arce, Falvatera, Giuliano di Roma, Pico, Alvito, Villa Santo Stefano, Corena Ausonio e Villa Latina. Ancora una volta la Regione Lazio ha dimostrato il proprio impegno nei confronti dei servizi dedicati alle famiglie, commenta l'assessore regionale del PD Scalia. L'accoglienza neonatale, infatti, oltre a garantire un'attenzione adeguata ai più piccoli, supporta con tutta evidenza il processo di reinserimento lavorativo post-parto delle donne, intervenendo in tal senso sul tessuto socio-economico del comprensorio. In provincia di Frosinone, con queste scadie, sono stati ammessi a finanziamento 7 progetti, di cui 2 intercomunali, che hanno intercettato una fetta importante del finanziamento complessivo da 7 milioni. La somma complessiva deliberata dalla Regione sarà così suddivisa: 243.000 euro all'Unione dei Comuni Antica Terra del Lavoro, che include San Giovanni in Carico, Pastena, Rocca d'Arce e Falvaterra; 300.000 euro a Giuliano di Roma insieme a Prosedi; 190.000 euro a Pico; 155.000 euro ad Alvito; 250.000 euro a Villa Santo Stefano; 300.000 euro a Corena Ausonio; 160.000 euro a Villa Latina; 39.000 euro arriveranno dall'esercizio finanziario del 2010. Vediamo altre notizie. Sanità: nel capoluogo il secondo forum domani alle 16.30 presso l'Hotel Cesare di Frosinone si terrà il secondo forum provinciale sulla sanità, l'iniziativa che terminerà il 13 marzo nel capoluogo ed interesserà i principali centri della provincia, organizzata da Adriano Roma, vice coordinatore provinciale vicario del PDL, candidato alle elezioni regionali, ed ha già riscosso un successo considerevole. La sanità è stato il cavallo di battaglia di Marrazzo, dice, di suoi compagni del centrosinistra, ha dichiarato in merito Adriano Roma. Purtroppo però, terminata la campagna elettorale, non soltanto tutte le promesse sono finite nel dimenticatoio, ma la situazione rispetto al passato è peggiorata notevolmente. Questo lo dice ovviamente Adriano Roma. Lezioni al gelo, su tutte le furie i genitori degli alunni della scuola media che accusano il comune. Studenti al gelo in classe in palestra, ieri la scuola media Aldo Moro esposa alla protesta. Stanchi delle continue promesse del comune, i genitori hanno reclamato e hanno preteso un intervento in tempi brevi. Provveditorato, festa per Mandarelli, festa grande per l'ufficio scolastico di Frosinone, che ha festeggiato il compleanno del suo dirigente Mario Mandarelli. Per l'occasione ha regalato una targa ricordo al dirigente, oltre che un prelibato rinfresco. Mandarelli è alla guida dell'ex provveditorato agli studi da molti anni, una guida illuminata, equilibrata ed un capo ben voluto da tutti i suoi dipendenti. Linee portanti della sua visione di politica scolastica sono il supporto ai processi di cambiamento, la qualità dell'integrazione scolastica e le azioni di sistema per lo sviluppo e la coesione sociale in stretto accordo con il territorio. Prima come funzionario e poi come dirigente, Mandarelli si è fatto apprezzare per il suo carattere comprensivo e affettuoso. Quindi auguri al dirigente Mandarelli. Le borse lavoro sono nel caos, una donna denuncia, aspettiamo ancora i soldi, ma non risponde nessuno. Alla sede dell'agenzia Frosinone Formazione fioccano le proteste e si apre un nuovo caso. Nuovi problemi per l'agenzia Frosinone Formazione, a protestare questa volta sono coloro che hanno partecipato ai progetti di borsa lavoro. Non solo, come denuncia uno di loro, sono ancora in attesa di ricevere le relative spettanze, ma segnalano pure la difficoltà di mettersi in contatto con la stessa struttura. Bene, allora ci fermiamo ancora un attimo con l'informazione, ancora Radio Ernica. Radio Ernica da Anagni, telefono 0775 72 65 46. Tutto quello che volevo era un'auto, comoda, bella, dai consumi contenuti. La scelta non è stata facile, ma mi sono rivolto ad un amico fidato che ha sempre il consiglio giusto. Volete conoscerlo anche voi? Vi presento De Marchis Auto, la concessionaria della vostra vita. Da De Marchis Auto potete scegliere tra tantissime auto di ogni marca con la sicurezza di anni di esperienza nel settore. De Marchis Auto, in via della Peschiera 5058 ad Anagni, telefono 0775 72 73 70. L'uomo di oggi merita attenzione, cura i piccoli dettagli, merita particolari di moda pregiati e all'altezza della situazione. La donna di oggi invece veste con brio, sottolineando linee e forme attraverso i colori più accesi. Iadi Cicco Gruppo Moda veste l'uomo e la donna con idee evolute, casual, pratiche e sempre eleganti. Iadi Cicco Gruppo Moda, noi vestiamo così, a Palestrina e a Piglio. Nasce ad Anagni la parafarmacia, un nuovo centro servizi con la presenza costante di due professionisti, la dottoressa Del Monte e il dottor Tignanelli, che con cortesia e competenza sapranno consigliarvi nel modo migliore. Farmaci senza obbligo di prescrizione medica, sanitaria, parafarmaco, omeopatia, fitoterapia, dermocosmesi, veterinaria, sistemi di riposo, integratori alimentari, prodotti per l'infanzia. Tutto nella parafarmacia, ad Anagni, in via Finocchieto, località Osteria della Fontana. Telefono 0775 76 9387. Il calore di una casa veramente tua. Lo scopri in un arredamento in sintonia con la tua personalità. Mobilificio Stazzi è l'idea che cercavi. Al Mobilificio Stazzi sei sicuro di quello che trovi e potrai scegliere in un vasto assortimento i migliori mobili delle marche più prestigiose. Al Mobilificio Stazzi la professionalità e la cortesia sono di casa. Mobilificio Stazzi, dei fratelli Stazzi, in via Anticolana ad Anagni, chilometro 2, telefono 0775 76 84 71. Mobilificio Stazzi, la casa come la pensi tu. Fumarsi una Marlboro dopo l'amplesso, oppure farlo in macchina di fianco alla strada, buscarsi un raffreddore, male che vada, sentirsi un po' animali, un po' primitivi, sentire che respiri, sentire che vivi. E convincere i tuoi ad andare in vacanza, spedirmi un giorno al mare, farmi in ogni stanza, provare le ricette, collaudare la cucina, usare la Nutella, usare la farina, guardare il suo corpo, scoprirne la forma, sentire dei passi e qualcuno che torna. Succhiarne la polpa e via la vergogna e i sensi di colpa, traiarsi sulla sabbia, rotolarsi nel fango, carezzare le gambe, improvvisarsi in un tango, annusarne la pelle, scoprirne l'odore, passare dal sesso a fare l'amore. E altro che l'America, altro che la musica, quando sei selvatica, altro che l'America. America. defies gravity. She's the greatest cook. And she's fat pee, fat pee, fat pee, fat pee. She's been to private school. She speaks perfect French. She's got her perfect friends. Always on the shit cool. She practices Tai Chi. She'll never lose her nerve. She's more than you deserve. She's just far better. Scusate, 54 minuti primi, quindi vicinissimi alle 18. Allora c'è una ultima ora di cui vi diamo lettura subito, me la do subito. Il premier Berlusconi ha scritto una lettera al presidente amministratore delegato dell'Alcoa. Nella lettera informa una nota: Berlusconi invita la multinazionale a conservare l'attività produttiva negli impianti italiani e comunque a non decidere prima che la Commissione europea abbia esaminato il provvedimento a febbraio. Berlusconi ricorda che una scelta diversa produrrebbe una grave crisi sociale in aree disagiate del paese e potrebbe modificare i rapporti tra il governo italiano e la multinazionale. Tra l'altro oggi i lavoratori della Alcoa hanno oltretutto occupato praticamente un aeroporto. D'altra parte la situazione è particolarmente disperata e quindi chiaramente questi atti sono, come dire, da aspettarseli. Bene, detto questo, noi proseguiamo con le notizie e con un occhio naturalmente alle notizie locali. Voglio però prima di tutto ricordarvi 0775726546 per interloquire con Radio Ernica, il nostro sito internet www.radioernica.com. E adesso andiamo a vedere un fatto davvero incredibile per certi versi. È stato presentato il rapporto su satanismo e gioco d'azzardo, un business da 10 milioni di euro, pensate. Affare di cuori, salute, lavoro, ma anche i numeri vincenti da giocare ai vari concorsi. Anche i sociari sono disposti a spendere cifre considerevoli per ottenere una previsione, levarsi di torno qualche maleficio o sbancare alla lotteria. Secondo il rapporto 2010 su satanismo, magia e gioco d'azzardo, presentato ieri a Roma, sono una sessantina i maghi che operano in provincia di Frosinone. Il fenomeno in ciuceria, come nel resto d'Italia, è sottostimato. L'occasione della presentazione del rapporto è servita ad annunciare la riapertura di Telefono Antiplagio grazie ad un progetto sulle dipendenze dalle pratiche magiche approvato dalla Regione Lazio. C'è un filo rosso che lega satanismo, magia e gioco d'azzardo, e la curiosità che suscita nei più giovani, curiosità che provoca sottomissione, dipendenza, allontanamento dagli affetti più cari, perdita di denaro. Per questo motivo l'European Consumers e Osservatorio Antiplagio hanno proposto alla Regione Lazio un progetto poi fatto proprio in una delibera della Giunta. L'Osservatorio Antiplagio quindi e l'associazione hanno deciso la riapertura del comitato di volontariato Telefono Antiplagio contro le truffe dei maghi e delle sette, fondato nel 94 e chiuso nel 2008. Il dato ricavato dalle denunce pervenute a Telefono Antiplagio in 15 anni di attività non può non tenere conto dell'anonimato e della paura di chi ha inviato la segnalazione con il proprio numero, il totale di oltre 500 gruppi distribuiti in tutta Italia. Ogni giorno 30.000 persone si rivolgono a maghi e astrologhi e spendono dai 20 ai 600 euro. Nel Lazio i maghi attivi sono circa 2.000 per un volume d'affari di 7 milioni e mezzo di euro. Roma fa la parte del Leone con 1.700 presenze, seguono Latina, Viterbo e Frosinone e Rieti con 60 presenze. Le province con il più alto numero di maghi sono Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo. Le vittime sono tantissime, 11 milioni, il 18% della popolazione, le famiglie interessate sono 3 milioni e mezzo, mentre l'età media delle vittime è di 42 anni, il 37 ha la licenza elementare, il 44 la media inferiore, il 13 il diploma. Dunque, amici ascoltatori, questo del mago, diciamo così, è un vero e proprio business da paura, e lo è anche nella nostra provincia. Questo centro va nella direzione di risolvere queste problematiche. Molte sono le persone che cadono in questi tranelli e che praticamente perdono la loro stabilità economico e sociale dietro ad una offerta di sicurezza, ad una certezza che il più delle volte naturalmente si dimostra praticamente una pia illusione. Chiudiamo questa pagina, apriamo una breve pagina con il mondo del lavoro. Un'azienda metalmeccanica assume due operai e ha chiesto al centro per l'impiego la preselezione. Nello specifico si tratta di due operai addetti alla produzione di manufatti plastici da stampaggio. Si richiede preferibilmente una precedente esperienza nel medesimo settore, una età dai 20 ai 30 anni, la proposta riguarda come luogo di lavoro Patria e un'assunzione con contratto a tempo determinato. Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono dare la propria disponibilità al centro per l'impiego di Frosinone fino al 3 febbraio in orario di apertura al pubblico, chiedendo del servizio preselezione, incontro, domanda, offerta. Ulteriori informazioni si possono

giganti più forti di Godzilla. Faremo una crociera su una nave tutta gialla. Andremo su un'isola che sembra disegnata, con colori enormi e un mare da sfilata. Per quanto mi riguarda ho fatto già il biglietto, ti prego non lasciarlo accanto a un sogno in un cassetto. Amo, amo qualcosa di speciale, su e giù per lo stomaco è come un temporale. Amo, amo il sugo sulla pasta, finché non è finito non saprò mai dire basta. Amo, amo è un dono di natura, perché la nostra storia non è solo un'avventura. Amo, amo una semplice canzone, e serve a me per dirti che sei una sognione. E torniamo in diretta, pochissimi istanti, alle 18:10. Andiamo anche su un'ultima ora economica, giornata positiva per le borse europee, sulla scia dei buoni dati degli Stati Uniti sul prodotto interno lordo nel quarto trimestre, sulla fiducia dei consumatori, sull'indice di Chicago. A Milano avanza dell'1,36%. E ancora il fine settimana fa archiviare quindi le ultime due sedute negative tra le blue chip in ripresa, Fiat, bene Telecom, balzo di Unicredit, debole Finmeccanica. In Europa Parigi a più 1,31%, segue Francoforte a più 1,24% e Londra a più 0,92%. Auguriamoci che in qualche modo questa situazione economica vada un po' nella direzione positiva. Giuseppe, ciao, buonasera. Buonasera cari amiche e amici di Radio Ernica. Benvenuto nei nostri studi, come va? Grazie Marco, è abbastanza bene, soprattutto insomma è finita la settimana lavorativa, quindi ci stiamo regustando già fin da adesso l'agognato riposo. Penso che anche tutti i nostri amici in ascolto chi avranno ha l'opportunità però di fare la settimana corta, chi invece come me domani lavorerà. Però insomma c'è sempre il sabato. Certo, sì. Insomma la fine della settimana incomincia per me è già iniziata, per altri si sta avviando altri si stanno avviando diciamo a godere del fine settimana, del weekend. Beh, insomma, buon fine settimana a tutti, anche se insomma il tempo non è molto clemente e non invita a passare un fine settimana con una classica gita fuori porta. No, e tra l'altro le notizie sono molto negative, nel senso che tra lunedì e martedì arriverà una nuova ondata di freddo e di pioggia con temperature molto più basse di quelle attuali, quindi sì. non si prospettano tempi migliori, diciamo. E infatti questo è il periodo tipico un periodo che viene sempre ricordato, l'ultima settimana di gennaio, la prima di febbraio, viene appunto ricordata come la settimana i giorni della merla, così vengono detti, le settimane, il periodo più freddo dell'anno. Quindi prepariamoci ai rigori dell'inverno, del fine inverno, perché dopo inizierà forse la parabola ascendente verso la parabola no discendente del freddo, scusatemi. Bene, abbiamo visto una notizia, un'ultima ora di economia, rimaniamo sempre nel mondo dell'economia, ma questa volta cambiamo però anche argomento, diciamo affrontiamo il problema dell'economia sotto un'altra angolazione, forse anche più sociale, forse anche più, se vogliamo, anche politica. Diamo la notizia di Repubblica, che appunto ha deciso di intraprendere una linea dura nei confronti della criminalità di stampo mafioso. È il presidente Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, che appunto lancia questo appello a tutti gli industriali del sud: chi paga il pizzo sarà espulso, chi paga e tace se ne dovrà andare, chi verserà il pizzo e non denuncerà le pressioni esercitate dalla mafia sulla sua azienda sarà sospeso o espulso da Confindustria. Lo ha deciso l'Associazione degli Imprenditori, aggiungendo il suo contributo al piano del governo contro la criminalità organizzata. L'obiettivo è quello di punire il silenzio e di incentivare le azioni contro una zavorra che uccide il mercato e soffoca tutta l'economia, in particolare quella del Sud. Che qualcosa andasse fatto anche all'interno dell'organismo che le rappresenta, le imprese lo avevano capito già qualche anno fa, quando nel 2007 l'allora presidente Montezemolo accolse l'invito lanciato dalla Procura di Palermo di cacciare i collusi. La Confindustria siciliana avviò subito la svolta, ieri il rafforzamento. La giunta intera ha votato una delibera proposta dalla Commissione Mezzogiorno che prevede l'obbligo di denuncia dell'estorsione subita all'autorità giudiziaria. Chi non seguirà questo codice etico potrà incorrere in due sanzioni: l'espulsione, quando l'azienda è stata condannata con sentenza passata in giudicato per reati di associazione di tipo mafioso o quando i suoi beni sono stati confiscati, o la sospensione, quando i procedimenti penali sono ancora in corso. D'ora in poi l'associazione si impegna anche a costituirsi parte civile nei processi dove le imprese risultano come parte lesa. Una decisione, quella contro la mafia, votata all'unanimità e molto voluta dal leader degli industriali Emma Marcegaglia, che ha apprezzato la decisione del governo di fare una battaglia forte contro la criminalità e che ritiene l'obbligo di denuncia una decisione che rafforza il nostro impegno in prima linea. Queste le parole della presidente di Confindustria. Quindi le imprese puntano a far parlare le vittime e a difenderle, scelta molto apprezzata anche dal sindacato e dai comitati anti-racket. Bene, questa appunto è una notizia che forse ci sembra la più importante, no, di quelle che vengono diffuse dalla stampa di questa mattina, anche se purtroppo, come al solito, le prime pagine dei giornali oggi aprono con le dichiarazioni di Silvio Berlusconi. Dico purtroppo non perché il nostro Presidente del Consiglio non meriti un'apertura in prima pagina, ma perché purtroppo spesso la prima pagina viene dedicata al Presidente del Consiglio per le sue boutade, questa volta le boutade contro gli immigrati. Appunto un'esternazione del nostro Premier in occasione di del Consiglio dei Ministri tenutosi a Reggio Calabria, Consiglio dei Ministri che appunto ha approvato il piano per fermare le mafie, e in questa occasione anche dal Ministro Alfano sono giunte nuove accuse ai magistrati. E leggiamo appunto l'apertura in prima pagina di Repubblica. Berlusconi contro gli immigrati, i reati aumentano per colpa loro. Ecco, quindi gli immigrati ancora sotto la lente, anzi nel mirino della società italiana, in questo caso quella rappresentata dai massimi vertici, no? Presidente del Consiglio. Nel giorno in cui il governo si riunisce nel capoluogo calabrese, vara il piano antimafia, il Presidente del Consiglio accusa gli immigrati. Una riduzione degli extracomunitari significa meno forze che vanno ad ingrossare le schiere della criminalità. E intanto il ministro della giustizia Angelino Alfano critica ancora i magistrati per le annunciate proteste durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Non è una cerimonia fatta per i giudici ma per i cittadini. Questo sostiene il ministro Angelino Alfano, che appunto interviene a proposito della manifestazione di protesta che verrà probabilmente messa in campo domani dai magistrati in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario. I magistrati a quanto pare appunto si presenteranno con la Costituzione sul petto, e al momento dell'intervento del Ministro di Grazia e Giustizia si alzeranno e abbandoneranno l'Assemblea. Senti Giuseppe, c'è su internet una dichiarazione di Cinzia Cracchi, che praticamente sarebbe l'ex fidanzata del sindaco di Bologna Del Bono. Noi la ascoltiamo e poi facciamo un commento a quanto la vita privata sia giusto che interagisca con la vita pubblica di un uomo pubblico. Signora Cracchi, le dimissioni del sindaco sono ufficiali ora. del Bono ha preso la sua decisione, credo che in questo momento abbia fatto il meglio per la città. Ma era un suo obiettivo? Grazie. Questo? No, assolutamente. Il mio obiettivo era solo riavere il mio lavoro. Senta, ma il sindaco ha parlato anche di odio nei suoi confronti. I suoi sentimenti invece quali sono? I miei sentimenti non sono certo di odio. Io di odio non ho mai parlato. Allora, Giuseppe, un commento. Beh, un commento. Innanzitutto, ecco, ci troviamo di fronte a dei comportamenti di segno opposto. Purtroppo ci vuole dirlo perché si appare poco obiettivi, però i fatti sono questi. Ci troviamo di fronte ad un sindaco che praticamente si dimette per un affare che si aggira attorno alle 450.000 euro circa, che avrebbe potuto rifondere con gli interessi, e si dimette per una questione privata che poi alla fine, insomma, in fin dei conti non ha influito più di tanto sulla vita amministrativa bolognese, non solo, dopo aver approvato il bilancio e quindi senza mettere in difficoltà la macchina burocratica e l'amministrazione finanziaria del Comune di Bologna. Ci troviamo di fronte ad un presidente della regione che alla fine della legislatura, parlo di Piero Marrazzo, si è dimesso per una storia di trans, una brutta storia di trans, che però a quanto pare, almeno stando a quanto sappiamo a tutt'oggi, non ha influito sulla vita politica e amministrativa, sul governo della regione, della regione Lazio. Poi ci troviamo di fronte ad altri casi, ci troviamo di fronte a esternazioni della moglie, la quasi ex moglie del Presidente del Consiglio, che appunto si sfoga sui giornali a proposito del suo illustre marito, e appunto parla di candidature alle europee che vengono scelte in base all'apprezzamento dell'aspetto fisico delle persone o anche per qualcos'altro, diciamo. E questo non produce nulla, e non produce nulla, e nemmeno un moto di un sussulto, una rivolta morale da parte dei cittadini italiani. Allora noi ci domandiamo: ma come mai questo strabismo dell'opinione pubblica italiana? Si diceva che una volta si parlava della superiorità morale della sinistra, e quindi ci si scandalizzava molto nel momento in cui un uomo di sinistra si ritrovava in mezzo a qualche situazione poco piacevole. Ma questo, insomma, forse perché appunto l'elettorato di sinistra è un po' più polemico, più critico nei confronti dei propri leader. Ma insomma, mi sembra però che questa diversità di giudizio di fronte a comportamenti che sono gli stessi o forse anche più gravi nel caso dell'altra parte, mi sembra un po', mi lascia un po'... Insomma, l'elettorato di centrosinistra è più di bocca buona, diciamo, mentre l'elettorato di centrodestra è più propenso al, come dire, al perdono o addirittura al desiderio di emulazione, diciamo, sì, in certi casi. Rimanendo sempre sull'argomento, Filippo Ceccarelli, editorialista di Repubblica, parla di quanto le donne hanno avuto a che fare con il potere. La bella accusatrice dello scandalo Montesi, Anna Maria Moneta Caglio, detta Cigno Nero, che denuncia le orge a Capocotta, dove la povera Vilma avrebbe trovato la morte. E poi, dopo il lungo silenzio, proprio in coincidenza con il crollo della Prima Repubblica, c'è Donatella Di Rosa, Lady Golpe, è un'altra donna abbandonata che mette in crisi la catena di comando delle forze armate, essendo stata la donna di un importante generale, denunciando trame che poi si sono risultate assolutamente fasulle. E lo stesso berlusconismo, non una ma due volte, subisce dei rovesci da parte di due in particolare. Prima le dichiarazioni della peste Omega, Stefania Ariosto, sulle mazzette, i grandi processi che incastrano Cesare Previti, e poi più recentemente quest'estate le registrazioni della escort Patrizia D'Addaria sui festini di Palazzo Grazioli. Insomma, le donne e il potere, non solo, bisognerebbe aggiungere, le donne e il potere, visto che un'altra di queste vicende riguarda proprio addirittura il mondo della transessualità, quindi la vicenda del presidente della regione Lazio Marrazzo. Ma quello che mi chiedo, Giuseppe, è: ma nei politici della cosiddetta Prima Repubblica queste cose, a parte il caso della Montesi che viene citato qui dall'editorialista di Repubblica, queste cose forse vengono gestite in una maniera diversa. Insomma, di Craxi si è detto tanto, si sapeva che anche lui aveva una vita molto movimentata da un punto di vista, diciamo, delle donne, però in effetti non si è mai arrivati poi a metterlo in discussione per un discorso di donne e potere. Quindi, beh, non dimentichiamo nemmeno De Michelis il discotecario, esatto, no? Ecco, appunto, quindi anche questo, ma diciamo che forse negli ultimi anni è cresciuta innanzitutto l'attenzione dei media su queste vicende private, non solo, anche l'invadenza dei media, insomma, è riuscita a scoperchiare anche questo pentolone di immoralità privata dei politici. Forse, diciamo, è soltanto questo, ma diciamo che oggi anche la vita privata viene utilizzata come arma politica, e questo, insomma, è abbastanza interessante. Ma a proposito di rapporto tra donne e potere, c'è, per quanto sempre rimaniamo sempre a Bologna e sempre alla vicenda di Del Bono, c'è un intervento di Flavia Prodi, della moglie dell'ex premier, che appunto sembra essere stata interpellata per candidarsi a sindaco di Bologna. Ma Flavia Prodi si tira fuori da questa vicenda e appunto esprime amarezza per il sindaco. È impensabile che io mi candidi, questo appunto lo dice, lo scrive Repubblica nella pagina interna. No, io non farò il sindaco di Bologna, dice Flavia Prodi, è l'unica risposta secca che mi sento di dare. Flavio Del Bono si è dimesso da una decina di minuti e Flavia Prodi ne è già informata. Un film che non si voleva vedere, ha detto lei, come il marito romano, l'ex premier. Nel tam tam sulla successione a Palazzo d'Accurzio, il nome della moglie del professore è stato fatto molte volte. Non sono un'improvvisatrice, risponde lei. Farò l'amministratore, il politico, fare l'amministratore, il politico non è il mio mestiere, l'ho detto anche in passato e lo ribadisco, soprattutto in periodi così complessi come questi. Bene, quindi Flavia Prodi praticamente allora si tira fuori da questa eventuale corsa per il comune di Bologna, corsa che tra l'altro ha molti punti interrogativi, perché se il centrosinistra ha queste problematiche, insomma, anche il centrodestra non credo che sarà facile trovare un candidato unico, diciamo, quindi è una corsa ricca di incognite. Tra l'altro penso che si voterà il 31 marzo, vero Giuseppe? Mi pare di aver capito che, diciamo. Sì, già noi avevamo ascoltato anche ieri nella trasmissione Anno Zero il segretario del Partito Democratico Bersani, che appunto faceva questa riflessione, cioè ponendo l'attenzione sul senso di responsabilità del sindaco dimissionario che appunto ha approvato il bilancio, e quindi praticamente Bersani appunto sosteneva questo: se appunto il ministro dell'interno è in grado di gestire la cosa con una certa efficienza e in modo, con una certa correttezza, si può sicuramente arrivare alle elezioni in tempi brevi senza che la città possa avere contraccolpi seri. Allora, su questa cosa praticamente delle dichiarazioni di Berlusconi c'è una presa di posizione della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, vediamo se riusciamo a inserirla, è sul Corriere della Sera TV. Allora, un attimo, dovremmo riuscirci, così vediamo come commenta la CEI sulla disoccupazione italiana. No, questo è una cosa sulla disoccupazione, sto cercando di arrivare a che mi sembrava giusto, anche perché ne abbiamo parlato, ma mi pare difficile in effetti riuscire a collegare. Tu hai altre notizie intanto, Giuseppe? No, rimanendo sempre a questa notizia dell'esternazione del presidente Berlusconi, insomma, ecco, forse qualche approfondimento, no? Ecco, il presidente Berlusconi diceva appunto, considerava le braccia degli extracomunitari praticamente delle braccia criminali, cioè per Berlusconi gli extracomunitari sono, diciamo che, ecco, in questo caso, questa mattina il Fatto Quotidiano esagera anche un po' le dichiarazioni del premier, perché appunto il Fatto Quotidiano riporta così, insomma, la notizia: per Berlusconi gli extracomunitari sono tutti malviventi, ma il PDL al Senato favorisce il lavoro nero. Questo appunto quello che dice il Fatto Quotidiano. Comunque sia, insomma, il presidente Berlusconi ha sostenuto che c'è un'alta percentuale di fuorilegge, di delinquenti tra gli extracomunitari, tra gli stranieri, e che sono più coloro che delinquono che coloro che praticamente invece si comportano onestamente. Ma insomma, si alimenta questo clima di intolleranza e si considerano gli stranieri un peso. Ma sempre il Fatto Quotidiano oggi dà qualche numero, no? Si stima siano circa 4.330.000 gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, e continuano a crescere costantemente rispetto al 2007, precisamente di un più 16,8%. Gli immigrati producono il 9,7% del nostro prodotto interno lordo, pari a 122 miliardi di euro, e senza il loro lavoro lo Stato perderebbe ogni anno almeno 7 miliardi tra tasse e contributi previdenziali. Il loro tasso di occupazione nel 2008 era del 67,1%, il 30% degli artigiani addetti all'agricoltura e operai è straniero, e il 16,3% di chi lavora nell'edilizia è immigrato. I lavoratori stranieri sono però più esposti agli infortuni, sono 143.651 nel 2008, dei quali 176 appunto sono risultati mortali, e guadagnano di media il 36% di stipendio in meno degli italiani. Gli occupati stranieri svolgono lavori che si concentrano tra quelli manuali e poco specializzati. Il 72% è personale non qualificato e solo il restante svolge professioni intellettuali o dirigenziali. I dati dei decreti flussi confermano la grande richiesta di lavoro da parte di imprenditori italiani. Ecco, sentite questa ultima, un dato che ci viene dato è interessantissimo. Le richieste di lavoro nel 2006 sono state circa 500.000. E nel 2007, parliamo delle richieste di lavoro, hanno superato le 740.000. Peccato che i posti previsti dal governo fossero in entrambi i casi solo 170.000. Ecco perché appunto Fatto Quotidiano poi commenta in modo molto polemico che il PDL favorisce il lavoro nero, anche con questa restrizione forte dei flussi di migrazione. Appunto si favorisce la clandestinità e quindi il lavoro nero, perché è chiaro che a fronte di 740.000 richieste, 170.000 offerte e possibilità di ingressi sono sicuramente troppo pochi. Ecco, su questo argomento, sul Corriere della Sera TV, c'è una intervista al prefetto di Roma, Mario Morcone, proprio sul problema dei migranti. Dalla redazione di Roma del Corriere Online, abbiamo come ospite il capo del Dipartimento Libertà Civile e Immigrazione del Ministero dell'Interno, il prefetto Mario Morcone, che ci aiuterà a capirne un po' di più per quanto riguarda le leggi sull'immigrazione, lo stato, diciamo, dell'arte dei provvedimenti, anche quelli, diciamo, amministrativi che servono alla regolarizzazione delle persone che sono già sul territorio, quelle che vogliono entrare, e anche per tutto quello che riguarda i problemi di integrazione, quindi i rapporti tra cittadini e immigrati che vengono qui per trovare, diciamo, un futuro nel nostro paese. Benvenuto, grazie, prefetto Morcone. Io, grazie, prima di cominciare a girarle le domande dei nostri appunto lettori che sono collegati con noi attraverso il Corriere.it, vorrei che lei, diciamo, dopo due settimane da Rosarno ci facesse un po' il punto della situazione e soprattutto ci dicesse se dobbiamo temere altre situazioni di rischio come quelle che appunto sono avvenute in Calabria. Ma la vicenda che è esplosa poi a Rosarno è una vicenda che si realizza periodicamente in alcune aree del nostro paese, che è legata a forme di sfruttamento del lavoro, soprattutto in agricoltura. Questa volta la vicenda ha avuto il rilievo che ha avuto perché si è andato oltre e ci sono stati naturalmente gli episodi che conosciamo e abbiamo dovuto trovare le soluzioni più giuste sia per gli immigrati sia quelle che si stanno realizzando nei confronti dei datori di lavoro che a Rosarno hanno sfruttato queste persone. Naturalmente l'impegno del Ministro in primo luogo e dell'amministrazione è quello che non si verifichi una nuova situazione Rosarno in altre aree del Paese, come invece spesso accade a Siracusa anziché nelle Puglie. Questo presuppone però uno sforzo comune, diciamo la verità. Qui non c'è da rincorrere naturalmente la singola responsabilità né da inventarsi il demiurgo, qui c'è da riscoprire un rapporto forte tra i vari livelli di governo, mettere un po' da parte anche come dire, l'ansia del consenso elettorale e lavorare assieme perché il territorio offra condizioni dignitose, quindi in primo luogo l'amministrazione dello Stato ma anche quella regionale e di sindaci e le associazioni, perché no, degli imprenditori che troppo spesso diciamo dimenticano anche i loro doveri. Dopo Rosarno il ministro dell'interno Roberto Maroni aveva annunciato che sarebbero state fatte delle ispezioni nelle industrie, in particolare appunto tra chi poi diciamo utilizza queste persone, siccome ci avviamo verso la stagione appunto della raccolta dei pomodori eccetera. È quello che il ministro Maroni e il ministro Sacconi hanno concordato, e credo che il Ministero del Lavoro stia avviando esattamente questo tipo di interventi ispettivi. Ma ripeto, il tema non è solo o non può essere solo di repressione, che pure è naturalmente importante, di fenomeni di sfruttamento così pesanti, ma deve essere anche di responsabilità da parte degli imprenditori e degli datori di lavoro, voglio dire, a cui non costerebbe poi tanto offrire delle condizioni dignitose a chi viene a lavorare da loro. Senta, io colgo l'occasione per una domanda che ci arriva da Enrico da Roma, per un discorso più generale. Enrico chiede: il Comune di Roma ha fatto fare richiesta di asilo a un gruppo di Rom serbo-bosniaci presenti in Italia da circa 8-9 anni, ma la richiesta di asilo non deve essere presentata entro ragionevoli termini di arrivo nel Paese? No, non ci sono dei termini specifici e soprattutto anche la normativa dell'asilo in Italia ha avuto un'evoluzione in questi anni abbastanza importante, per cui oggi ci potrebbero essere condizioni normative che non c'erano quando queste persone sono arrivate. Peraltro bisognerà poi vedere le singole situazioni, perché nel caso dell'asilo le situazioni vanno valutate una per una, caso per caso, anche in relazione all'evoluzione che nei Balcani, la ex Jugoslavia e i vari stati naturalmente hanno avuto, la disponibilità che possono offrire a riprendere queste persone. Lei conferma che state dando permessi umanitari agli immigrati che a Rosarno sono stati feriti? Certo, il Ministro ha dato assicurazione che chi è stato ferito a Rosarno riceverà un permesso umanitario e il prefetto di Reggio Calabria, con cui stamattina proprio ho parlato, sta provvedendo in questo senso sulla lista delle persone che gli abbiamo fornito. Bene, abbiamo ascoltato una parte di questa intervista molto lunga con il prefetto di Roma Mario Morcone, un'intervista devo dire molto ben centrata sull'argomento che abbiamo trattato finora, quello degli stranieri e dei migranti. Sì, parliamo anche di scuola e di immigrazione, perché appunto resta di grande attualità problemi e le polemiche, le discussioni legate alla proposta del ministro Gelmini, ministro dell'istruzione, di fissare un tetto del 30% per le presenze di immigrati all'interno delle classi. Una proposta che a quanto pare piace molto alle scuole lombarde, quindi la Padania profonda diciamo apprezza questa proposta, ma anche qui appare diciamo una proposta forse spropositata rispetto a quella che è la realtà, e anche qui insomma vogliamo dare qualche numero, come si suol dire, qualche numero che ci viene suggerito dal Fatto Quotidiano. Nell'anno scolastico 2008-2009 il numero degli iscritti stranieri di cittadinanza non italiana è arrivato a 628.937 presenze con un incremento del 9,5% rispetto all'anno precedente, un aumento apparentemente molto grande, ma nel 2007-2008 l'aumento dei ragazzi immigrati nelle scuole italiane era stato del 14,4% e l'anno prima del 18,8%. Il ritmo di crescita, insomma, è forte, ma sembra essere in assestamento. In crescita, invece, il numero di alunni stranieri nati in Italia. Sono 233.051 individui e rappresentano di conseguenza oltre un terzo del totale degli studenti immigrati, dato che presumibilmente fa pensare che conoscano l'italiano proprio perché non sono nati nel paese d'origine. Nella scuola per l'infanzia sono iscritti 125.059 bambini non italiani e nella primaria 234.206, l'8,3% del totale. Salendo di grado scolastico diminuisce il numero di alunni immigrati. A conferma che oggi il tema vero è che molti nascano qui, non arrivano quindi in seguito. Alle medie sono circa 140.000, alle superiori 130.000, fino ad arrivare all'università, dove sono stranieri sono solo il 2,9 degli iscritti, pari a 50.000 persone. Ma sempre a proposito di immigrati e sempre a proposito di discriminazione, questa volta torniamo anche al mondo del lavoro però, e torniamo soprattutto all'agricoltura, perché in seguito a queste dichiarazioni del Premier abbiamo praticamente registrato una dichiarazione della Confagricoltura resa proprio alla stampa, ed è sempre il Fatto Quotidiano che oggi dedica un vasto approfondimento a questo problema, che ce lo riferisce. La Confagricoltura che richiama l'attenzione sulla necessità di questi immigrati. Abbiamo bisogno di loro, è il grido d'allarme lanciato dai coltivatori. I lavoratori immigrati sono una risorsa importantissima. L'agricoltura ha bisogno di loro. Mentre da Reggio Calabria, a pochi chilometri da Rosarno, Silvio Berlusconi tracciava l'inquietante equazione extracomunitari uguale criminali, così appunto l'articolo del Fatto Quotidiano, gli rispondeva da Roma Vito Bianco, direttore generale Confagricoltura, la Confindustria delle aziende agricole, uno dei massimi rappresentanti di quell'imprenditoria che fa più affidamento proprio sul lavoro degli immigrati. Gli stranieri che lavorano nei campi sono in Italia 90.000, il 10% del totale, 17.000 con contratti a tempo indeterminato e 73.000 a tempo determinato, senza contare tutti quelli provenienti dai paesi neocomunitari tipo Romania e Polonia. Il loro apporto è fondamentale per molte coltivazioni che altrimenti andrebbero in malora. Le imprese agricole non rinuncerebbero mai a queste braccia e si vantano di essere diventate in molti casi un luogo di coesione sociale, perché il lavoro e l'alloggio fornito sono strumenti fondamentali per un'integrazione effettiva e dignitosa. Riferendosi a Rosarno e implicitamente tirando in ballo anche i comportamenti di alcuni agricoltori, il dirigente Confagricoltura avverte che la crisi delle arance e la conseguente contrazione del reddito delle imprese non può giustificare in alcun caso lo sfruttamento dei lavoratori. Per Bianco, fatti gravi come quelli di Rosarno non devono incidere negativamente sull'accesso dei lavoratori extracomunitari in Italia. E questo è quello appunto che ci riferisce il Fatto Quotidiano a proposito del parere dei contadini. Ma insomma, questo problema, queste esternazioni del Presidente del Consiglio hanno anche eccitato gli animi e hanno eccitato, anche reso incandescente il dibattito politico, ed ecco che arrivano subito le dichiarazioni dei rappresentanti dell'opposizione che gridano al rischio di alimentare il razzismo. C'è anche una gaffa della Finocchiaro, della capogruppo Finocchiaro, poi corretta con delle scuse. Una frase così ci mette fuori da qualsiasi contesto moderno. Questo è quello che dice Pierluigi Bersani, che usa la matita blu degli errori gravi per giudicare l'equazione disegnata dal Premier Berlusconi su immigrazione e delinquenza. Quella secondo cui più immigrati vuol dire più delinquenza. Un governo non può sempre agitare le paure, dice il segretario del PD, deve saper anche guidare il paese alla razionalità e all'umanità. I dati raccolti sul territorio dalla Caritas d'altronde suonano come una solenne bocciatura della tesi più amata dai leghisti, fatta proprio dal Presidente del Consiglio. In realtà il reato più commesso dagli immigrati è proprio la violazione della Bossi-Fini, ossia la clandestinità stessa. Il 70-80% degli stranieri denunciati sono irregolari, rivela il rapporto 2009 di Caritas Migrantes, mentre il tasso di criminalità per gli stranieri regolari è del tutto simile a quello degli italiani. E torniamo alla polemica politica e a Repubblica, che appunto ci parla di questo. Nell'opposizione la reazione alle parole del Premier è durissima. L'Italia ha bisogno di leggi severe ma giuste, non di inutili slogan razzisti, dice il capogruppo dell'Italia dei Valori Massimo Donati. Sono parole vergognose. Berlusconi, dice Livia Turco del PD, incita al razzismo e alimenta un clima di intolleranza dalle conseguenze imprevedibili. Da Rosarno a Castel Volturno gli immigrati sono vittime della criminalità organizzata, sono loro l'anello più debole. È vergognoso mascherare così un fallimento del governo, protesta Jean-Léonard Touadi del Partito Democratico. E il capogruppo dei democratici Angela Finocchiaro, l'equivalenza di Berlusconi, prova a riscriverla da capo, ma inciampa. Altro che immigrati, diciamo meno premier, meno crimini. Immediata la replica naturalmente di Paolo Bonaiuti, restiamo esterrefatti di fronte alla pesante battutaccia verso il Presidente del Consiglio, a parti inversi si sarebbe scatenata una tempesta, ma alla sinistra si sa, tutto deve essere concesso. Certamente la battuta è stata infelice, ha corretto poi la Finocchiaro, e di questo mi scuso, ma paragonare gli immigrati ai criminali è gravissimo e ho trovato questa equiparazione davvero odiosa. Ci fermiamo per un attimo per uno spazio pubblicitario e musicale, riprenderemo poi la trasmissione dedicandoci anche di più alla informazione locale. Lascio intanto la linea a Marco. Sì, io prima di passare alla musica volevo praticamente invece leggere una presa di posizione di Fulcro Pratesi su il problema della caccia tutto l'anno, l'ultima follia del PDL. La storia purtroppo si ripete, sono passati 40 anni, ma le cose nel Parlamento italiano non sono molto cambiate. Il 28 gennaio del 70, a pochi giorni dall'apertura dell'annata europea della natura indetta dal Consiglio d'Europa, il Parlamento approva una legge che ripristinava l'uccellagione, cioè la caccia degli uccelli con le reti. A nulla valsero le proteste, le denunce, le dichiarazioni dei più insigni personaggi della cultura. Ricordo un bellissimo disegno di Raffaele Alberti per Italia Nostra. Contro questo ritorno al passato costituito dalla reintroduzione di una pratica vietata. Oggi, all'inizio dell'anno dedicato all'ONU alla biodiversità, si legge di riaprire un tema che grazie alla legge sulla caccia approvata con grande maggioranza nel 92 si riteneva ormai accantonato. Tra le norme della legge vigente c'è quella importantissima che limita, stando all'indicazione dell'Unione Europea, il periodo venatorio dai primi di settembre al 31 di gennaio. Ieri al Senato, nel corso del dibattito per la legge comunitaria, nonostante il parere negativo del Ministero dell'Ambiente e quello dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, la bocciatura per ben tre volte nel 2009 del governo e di varie commissioni parlamentari, le proteste di personaggi come il ministro Michela Brambilla, Dacia Maraino e infine la denuncia di più di 100 associazioni ambientaliste e culturali contrarie a un'estensione dei termini per l'attività venatoria, l'emendamento proposto dal senatore Santini del PDL, ora divenuto articolo 38, sostenuto dal ministro per le politiche europee Andrea Ronchi, è passato. Questa norma tende a ridare alle regioni, una volta approvata dalla Camera, la possibilità di autorizzare l'attività delle doppiette anche prima di settembre e dopo il 31 di gennaio, andando a colpire animali ancora immaturi e uccelli migratori in viaggio verso i siti di riproduzione. E poi si considera inaccettabile il fatto che una minoranza di 700.000 persone, circa l'1% della popolazione, possa arrogarsi il diritto, facendo leva su una classe politica più sensibile ai voti che alle esigenze collettive, di disporre a suo piacimento della fauna e del che è per legge patrimonio indisponibile dello Stato. Insomma, la denuncia di Fulco Pratesi continua praticamente con toni molto accorati. Qui praticamente in effetti si è dato via vita ad una legge che in poche parole cambia di molto i termini della questione e praticamente non è, come dire, esagerato dire caccia tutto l'anno. Francamente mi sembra veramente un po' troppo, anche perché le condizioni ambientali, le condizioni generali dell'ambiente, della natura, assolutamente già non vanno d'accordo con la caccia così come era concepita finora, figuriamoci caccia tutto l'anno. Bene, detto questo, musica e pubblicità.

amico ormai di vecchia data, un nostro graditissimo ospite che abbiamo già avuto modo di ascoltare in una lunga, una bellissima, interessantissima intervista telefonica, periodo della fine dell'anno, una telefonata che appunto ci arrivava dal Libano, sì, perché il maresciallo maggiore Antonio Gravina, che però per noi poi è Tonino, ci ha telefonato da lì perché fa parte della missione UNIFIL, della missione ONU, della missione ONU in Libano. Ecco, oggi è qui in Italia per qualche giorno perché poi è pronto a ripartire, ma sentiamo direttamente Antonio. Allora, qual è il tuo piano di lavoro, il tuo programma, i prossimi appuntamenti? Innanzitutto buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera a Radio Ernica che ormai ha consolidato questa nostra grande amicizia ventennale, considerata anche i miei trascorsi politici, dove sovente questa radio prima effettuava un servizio utile per la collettività, quali consigli comunali e anche le interviste personali. Beh, innanzitutto, stranamente stasera sono emozionato perché insomma la prima licenza, ritorno a casa, dopo 2 mesi di attività operativa, orgoglioso anche di appartenere a un'organizzazione quale quella dell'ONU e soprattutto di rappresentare con altri colleghi italiani un pezzo dell'Italia e lasciamelo dire anche un pezzo di Anagni, considerato che ci sono altri ragazzi, compreso il carrista Andrea Retarvi, che è un altro anagnino che è giù con me in Libano. Le esperienze professionali maturate sono esperienze fortissime e soprattutto che possono, anzi esaltano lo spirito e anche l'attività professionale. Poi per quanto riguarda i nostri contatti con le altre forze armate, perché lì è un contingente internazionale dove partecipano ben oltre 20 nazioni a seguito della risoluzione dell'ONU sancita in New York a seguito della fine della guerra tra Israele e gli esponenti di Hezbollah, quindi gli esponenti del Libano sostanzialmente. E poi dove vi trovate lì? Noi adesso ci troviamo praticamente a Nakura, che è il nostro quartier generale. Però rispetto a Beirut, diciamo. Siamo a 110 km circa a sud del Libano, quindi al confine con Israele, dove è stata creata una fascia di interposizione dove operano i nostri militari al comando fino ad oggi per 3 anni del generale Graziano, che proprio oggi verrà sostituito da un generale spagnolo secondo le indicazioni dell'ONU chiaramente. E quindi è inutile dire che gli italiani sono ben visti, ci amano, ci vogliono bene, anche perché... Beh, c'è stata anche una precedente esperienza tra l'altro degli italiani, no? Sì, a Beirut, sì. In Libano, eccetera. Quindi... Riguardo a livello personale... No, io non mi riferisco a livello tuo personale, sì, diciamo, sì, gli italiani lì erano conosciuti, credo, sì, erano conosciuti, come avevano operato, no? Esatto, però ecco, il nostro approccio è un approccio veramente di... innanzitutto per il ruolo super partes fra le fazioni interessate, ma anche perché facciamo effettivamente un'azione di sostegno anche alle popolazioni locali, siamo vicini alle problematiche, anche in una sorta di ricostruzione, in alcuni paesi sono state adattate delle scuole, messe in sicurezza delle strade, insomma tutte quelle attività che vedono il militare italiano non come una sorta di militare oppressore, così tra virgolette, ma un militare che è volto veramente all'interesse della pace. Auguriamoci che vada sempre bene così e certo, che soprattutto ci apprezzano sempre per la nostra attività. Ecco, questo è quanto. Senti Tonino, io volevo chiedere quali sono le situazioni più difficili, più complicate di fronte alle quali voi vi trovate, in particolare voi del contingente italiano. E poi ti volevo chiedere se c'è stato un momento, qualche volta che hai avuto, tu ormai sei un professionista, sei un militare di lunga carriera, però insomma può succedere, c'è stato un momento in cui hai avuto magari paura, hai temuto per la tua incolumità, un momento, diciamo, non dico di sconforto, ma insomma di forte tensione, emozione tua personale? Approfitto anch'io allora per fare una domanda, così risponde anche alla mia, un po' più leggera. Però nel contingente italiano ci sono anche donne? presenza femminile. C'è un'aliquota di donne che sono ragazze veramente preparatissime. Rapporti come sono? Positivi. No, sono rapporti ottimi perché c'è una ragazza che particolarmente stimo tantissimo, che è una mamma di due figli, quindi ha dovuto lasciare i due bambini in Italia per fare questa missione, quindi insomma c'è da apprezzare, cioè certo, i sacrifici che vengono posti in essere anche nel lasciare le famiglie. Non vi nascondo, è inutile dirle che anche se uno è professionista, però la sera di Natale il groppo in gola c'era, perché non è facile lasciare le tradizioni, i propri cari. Lì è stata ancora veramente solenne, anche considerato il contesto. Eravamo veramente tutti uniti, anche con altri contingenti stranieri. La sera di Natale è stata veramente un momento che riporterò dietro per tutta la vita, che mi ha toccato fondamentalmente. Poi per quanto riguarda la sicurezza, i problemi, queste sono missioni che chiaramente sono missioni di pace, però dietro l'angolo il pericolo c'è sempre, quindi non sottovalutiamo mai nessun segnale, nessun sentore che ci possa pervenire dall'esterno. Quindi ecco, magari ci ha allarmato il fatto che i primi di dicembre è saltata una bomba, hanno fatto esplodere una bomba a bordo, ci sono stati dei morti. Erano tra fazioni opposte lì, in quel teatro un po' ancora poco chiaro. Non riguardava noi, però insomma è sempre un campanello d'allarme che non bisogna assolutamente minimizzare. E poi per quanto riguarda professionalmente, sono stato coinvolto perché purtroppo per delle cattive condimeteo al largo di Beirut sono affondate ben due navi mercantili, ci sono stati dei morti, e guarda caso l'Italia ha fatto la propria parte, perché lì in zona, oltre ad esserci le truppe terrestri, c'è anche una contingente navale con a capo un ammiraglio italiano designato dall'ONU sempre, che comanda questa formazione navale in mare, che pattuglia le coste libanesi per il controllo del traffico in entrata e uscita, e dove abbiamo prestato soccorso, perché il Libano non ha una sua struttura di soccorso, e quindi con i nostri mezzi, dalla centrale operativa di Nakura, dove mi trovavo io, abbiamo coordinato questi soccorsi e abbiamo salvato anche delle persone. Ecco, questi sono i lavori che veramente ci gratificano, magari non passano nemmeno tanto in risalto anche sulla stampa, però lo facciamo, ecco, ci siamo presenti e siamo stati apprezzati per questo, anche dalle autorità libanesi. Ma tu nello specifico, Antonio, che incarico hai lì? Io mi occupo di comunicazioni, di trasmissioni, soprattutto sono, siccome siamo due della Marina giù presenti in quartier generale, siamo una sorta di collegamento con le unità che stanno in mare e noi che rappresentiamo la forza armata a terra, ecco. Ho capito. Quali sono le forze in campo del contingente italiano? Cioè quali corpi sono coinvolti, in che misura, con che quantità? Adesso le quantità precise non le so. Comunque chiaramente in Libano ci sono circa 2800 uomini e donne, chiaramente. La grossa liquida chiaramente è formata dai rappresentanti dei colleghi dell'esercito, dell'aeronautica, dei carabinieri e quindi anche noi della Marina, che siamo in pochi, però ci siamo, ecco. E poi ci sono anche le altre nazioni che partecipano secondo le loro disponibilità, quindi abbiamo anche una liquida del Ghana, della Tanzania, della Cina, della Slovenia, di Cipro, Turchia, India, insomma tante nazioni. Aprile verranno anche due navi del Bangladesh addirittura, ecco, è significativo anche questo fatto qua, che magari nazioni con non grosse tradizioni militari, anche avendo con dei problemi socio-economici non indifferenti, però danno anche il loro rapporto a quello che significa proprio l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ognuno fa la sua parte per la pace. Riuscite a comunicare con lingue così diverse tra voi? Sì, il bagaglio culturale è proprio quello. L'esperienza deriva proprio dal fatto che c'è la stretta necessità di comunicare, quindi con la lingua madre inglese, Quello chiaramente ci aiuta tantissimo e soprattutto ci porta avanti nei dialoghi, nelle riunioni, nei meeting che facciamo. Ed è bello, ecco, sotto questo aspetto è bello perché si socializza con tutte queste aspetti culturali di queste nazioni, di questi colleghi qua. Per esempio, prima di partire abbiamo fatto un incontro di calcio con una rappresentativa turca, dove abbiamo perso. Mamma di turchi, insomma. Ci hanno ripromesso una rivincita, però è stato molto bello perché abbiamo avuto una grandissima ospitalità dagli amici turchi nel loro campo base, è stata fatta una bella sfida a calcio e poi una rimpatriata. Quando riparti, Antonio? Domani addirittura. Domani, si riparto domani. Madonna, quindi domani è finita già la settimana, praticamente. Finita già una settimana, purtroppo sì. Porca miseria. Quindi domani prendi l'aereo a Roma? Sì, sì. E si riparte. Ritornerai? Se tutto va bene, a Pasqua. A Pasqua, sì, quindi Pasqua. Tornerai. E poi per terminare, però. No, la missione la terminiamo a giugno. Quindi fino a giugno sei impegnato, sì, sì. Però a Pasqua avrai un'altra settimana. Sì, un'altra settimana, certo. Certo, insomma, è dura, eh? Non è facile. Non è facile, anche perché, ripeto, staccarsi dalla famiglia. Staccarsi dalla famiglia, dai bambini, non è per niente facile. Però, ripeto, come dissi l'altra volta, adesso sono migliorati i sistemi di comunicazione, cioè abbiamo internet, televisioni satellitali, quindi il rapporto con la famiglia è pressoché quotidiano. Certo. E è costante. Sotto questo punto di vista, sì, state, sì, meglio, insomma. Stiamo molto bene, ecco. Chi è che vuole fare una domanda ancora? Giuseppe, Guglielmo, Cecilia, pure c'era abbiamo, tutto. Sì, infatti abbiamo qui in studio il corrispondente di Ciociaria Oggi, con lui ci intratterremo poi fra qualche minuto su quelle che sono le notizie più salienti che Ciociaria Oggi ha dedicato alla nostra città. Intanto Guglielmo, ti salutiamo, buonasera Guglielmo, anche da parte di tutti i nostri amici e amiche di Radio Emica. Vuoi approfittare per chiedere qualcosa al maresciallo maggiore Antonio Gravina? Mi rimane sempre difficile chiamarlo così, con questo atteggiamento di ufficialità, perché per me è sempre Tonino. Comunque passo il microfono a Guglielmo. Innanzitutto buonasera a tutti, buonasera ai radioascoltatori e buonasera anche al maresciallo Gravina, e un grazie anche per quel contributo che sta dando anche in Libano. Vorrei chiedere che cosa magari non viene messo in risalto dai media o dalla stampa della vita in Libano, oppure proprio della missione, cioè che cosa secondo lei manca per dare un'immagine diversa sia alla missione che alla popolazione del Libano, visto che si trova in una zona molto calda, diciamo, ecco. Beh, adesso non è che vorrei aprire una polemica, per carità, non è il mio costume. Diciamo che è un periodo che le forze armate, ritengo, e questo è il mio modestissimo parere, operano in contesti veramente significativi. Pensi pure per esempio all'Afghanistan o all'Iraq o altre, perché non ci sono solo queste missioni, c'è la Bosnia, ci sono altre missioni internazionali, dove il ruolo dell'Italia sta assumendo, è un ruolo veramente di punto di riferimento e di grandissima considerazione. E su questo ne vado veramente orgoglioso. E poi c'è anche un altro fatto importante, che anche il Parlamento, ecco, per esempio, è passato un finanziamento alle missioni internazionali, dove c'è stata per la prima volta in 50 anni di vita repubblicana all'unanimità un consenso fragoroso, cioè tutti i deputati hanno votato a favore, indistintamente maggioranza e opposizione. È segnale che, per esempio, un militare che opera all'estero, sapendo che in Italia la forza politica apprezza il lavoro e viene apprezzato anche dai cittadini, e questo ci onora veramente, ci onora e significa anche che ci stimola a far sempre bene. È chiaro che ci sono delle situazioni dove purtroppo, anche situazioni operative che non è che possono essere messe in risalto, anche per la sicurezza e per alcuni aspetti demandati e soprattutto vincolanti alla sicurezza degli uomini giù lì, che ci sono, che operano nei vari territori. Però è anche vero che, per esempio, noi ci troviamo costantemente la stampa vicino, soprattutto non è come le altre occasioni, si ricorda in talune situazioni, c'è una grossa considerazione, devo dire la verità, c'è una grossa considerazione, e soprattutto c'è il gradimento delle popolazioni civili. Lì noi siamo ben voluti in Libano, posso dire che veramente l'italiano è ben visto. Mi sono trovato all'aeroporto di Beirut, che è fuori teatro operativo, la gente mi fermava, ci apprezzava per l'opera che stiamo facendo, e questo è molto bello, è veramente significativo, ecco, vuol dire che la strada da percorrere è sempre quella lì, quindi credo e ritengo, non voglio nemmeno alzare un polverone, che rispetto all'approccio come hanno gli americani o gli inglesi, il nostro sia un approccio migliore, che è basato soprattutto sulla comprensione, sul rispetto delle tradizioni e soprattutto sul rispetto delle situazioni che si vivono in quei luoghi. Bene, tu ti fermi qui, Peppe, perché mi sa che dovete andare, sì, via. Sì, devo lasciarvi tra poco, perché abbiamo altri impegni anche con Aurelio, ma insomma sempre legati all'informazione. Cose, sì. Fate cose buone. Sì, senz'altro. Intanto, ecco, io vorrei ringraziare Tonino per il suo contributo, che in certi tratti è stato anche emozionante, mi ha anche emozionato, insomma, per alcuni aspetti umani, e poi perché appunto è un amico che è sempre vicino a noi e che ha ritenuto di valorizzare anche la nostra radio con questa esperienza così forte. Tra l'altro, nell'occasione della sua intervista telefonica, per noi è stato il primo collegamento internazionale che abbiamo fatto in zona di guerra, no, perché in zona di pace, perché voi siete lì in zona operativa, perché voi siete lì per, appunto, per portare la pace. Noi ricordiamo, ecco, appunto, che questi nostri militari sono lì per servire il nostro paese, non soltanto per servire il paese in cui si trovano, in cui loro sono operativi, e a loro va tutta la nostra riconoscenza, a Tonino e anche a Retarvi, perché appunto è il nostro diciamo conterraneo, ma a tutti coloro che stanno servendo anche a rischio della propria incolumità. Ti salutiamo, Antonio, e comunque ti invitiamo a rimanere comunque qui con noi fino alla fine della nostra diretta. Io lascio il microfono a Marco, che appunto da adesso in poi si intratterrà con Guglielmo Cecilia, corrispondente di Ciociaria Oggi, per una carrellata sull'informazione locale. A tutti voi, buonasera. Prima di passare a Guglielmo, saluto anche io il vecchio amico Antonio Gravina, che quindi ancora riparti domani? Domani riparto alle 16 da Fiumicino, quindi per stare lì in serata a Beirut. Quante ore ci vogliono? 3 ore di volo. Ah, 3 ore di volo. Sì. Ma quindi riparti anche con gli altri colleghi, naturalmente. Sì, sì, sì, sì. È un volo dedicato solo a noi. Dedicato solo, sì, sì. Solo a voi. Cosa fai? Quando ripari porti le previste da qui, qualcosa? No, assolutamente. Qualcosa di scaramanti? Niente? L'ho detto vagamente, è ottimo. È ottimo e abbondante. Quindi non c'è bisogno, diciamo. La fettuccina sociale, quella mi manca, sì, però. Io sono un tradizionalista, quindi la pizza il sabato e la fettuccina, la è una cosa che mi manca. Però penso che non sia possibile da trasportare. Assolutamente. E quindi praticamente te ne starai lì fino a Pasqua. Vabbè, allora vedrai il nostro sito, spero. Il sito si vede abbastanza bene, quindi insomma continuerai un po' a vederci anche con il lì. Sito del comune, insomma, sono quei portali che ci fa piacere. Mi fa piacere anche perché è un modo pure per stare, come dire, infatti, a contatto con... Ma noi sociali usiamo tantissimo il sito ultimissime.net, che sì, ci danno le informazioni, molto e bello, speriamo, sì, che anche Ciociaria Oggi o la provincia, credo il Messaggero già lo faccia da tempo, sì, dedicano il tempo, per esempio già lo fa, dedicano del... anche Ciociaria Oggi l'ha aperto, e quindi è importante questo qua, perché siamo in tanti fuori, siamo in tanti. Grazie della visita, Antonio. Grazie, è un piacere, buon viaggio domani, fatti sentire da lì, d'accordo. Ok, Guglielmo, allora siamo alle battute finali, che mi dici? Quali sono gli argomenti che stai seguendo ultimamente? Sì, allora sul giornale di oggi, su Ciociaria di oggi, interessante l'articolo di apertura, appunto, della pagina di Anagni, che riguarda ancora il problema della Videocon, in un articolo appunto nel quale appunto si mette in risalto il fatto che la proprietà indiana da agosto non effettua i versamenti per i fondi pensione agli operai. E per questo il sindacato, in particolare la FEMCA CISL, ha avviato un'azione legale e penale nei confronti della proprietà indiana, accusandola appunto di reato di appropriazione indebita, proprio perché da agosto non versa i fondi pensione, e così aumentano poi i disagi degli operai, che oltre la cassa integrazione, oltre la problematica del futuro incerto che si prospetta dinanzi a loro, alle spalle non hanno neanche i fondi pensione versati da parte della proprietà indiana, che a questo argomento adduce che non abbia risorse economiche sufficienti per poter pagare i fondi pensione. Sempre dal punto di vista della problematica del lavoro, e quindi sempre nell'ambito della Videocon, rimangono ancora incerti i progetti che sono stati presentati per un'eventuale acquisizione del sito e quindi un'eventuale riconversione, dal momento che dal Ministero dello Sviluppo Economico sembra che tutto taccia, dal momento che non si sa nulla sulla sorte di questi 5 progetti. Questo quindi va ulteriormente ad allarmare i lavoratori. Per quanto riguarda sempre la problematica, per quanto riguarda l'ambito cittadino, interessante è stata l'inaugurazione di una mostra presso la Scuola Cattolica Bonifacio VIII di Anagni, sita appunto in Piazza Dante, una mostra che è stata dedicata in occasione appunto della giornata della memoria e quindi del ricordo dell'Olocausto e della Shoah al campo di concentramento di Terezin, un campo nel quale appunto hanno perso la vita molti bambini, perché era un campo esclusivamente dedicato appunto ai bambini. Durante la vita, durante questa loro deportazione, si svolgeva tra lavori e scuola all'interno del campo di concentramento. È per questo appunto che i ragazzi e gli alunni della terza media e del ginnasio della Scuola Cattolica di Anagni hanno inteso appunto riportare a conoscenza della cittadinanza e di quanti appunto vogliano visitare la mostra gli orrori del campo di Terezin, attraverso appunto le poesie e i disegni che quei bambini durante la loro vita nel campo avevano fatto. E all'inaugurazione vi era anche il vescovo diocesano, il vescovo cittadino Monsignor Loppa, che appunto ha posto l'accento sul concetto di memoria, che a suo giudizio è un concetto ed uno strumento molto importante per la vita di un cristiano, dal momento che con la memoria vera, dice il vescovo Loppa, va coltivata sempre per non ripetere errori ed orrori del passato e per essere noi stessi migliori. Nella storia, infatti, dice il vescovo, vi sono stati molti avvenimenti in cui il demonio si è manifestato. Esso indossa varie maschere nella storia, tra cui quella della dittatura, con la quale sono state messe in atto le azioni più barbare, tra le quali l'eccidio degli ebrei. Il vescovo ha concluso il suo intervento augurandosi che si sviluppi sempre più la memoria di questi orrori, affinché al posto dei campi di concentramento siano costruiti dei campi dell'amore e della fratellanza tra i popoli, in modo tale da assicurare una pace sociale, una pace mondiale. Bene, insomma, hai fatto una carrellata ben approfondita sulle vicende locali di Anagni. Allora, Guglia, come vanno le cose? Tu da quanto tempo stai al giornale? Quasi a maggio 2 anni. A maggio sono 2 anni che lavoro con il giornale. Allora, che esperienza hai fatto? È un'esperienza positiva, piacevole. Un'esperienza che umanamente forma, perché devo dire vieni a contatto con la popolazione, con i cittadini, conosci persone, ma soprattutto capisci meglio la vita della città, ti interessi alle problematiche e attraverso appunto questa conoscenza puoi anche cercare di elaborare tue alternative, tue soluzioni o magari proposte che potrebbero essere utili alla vita della città, ecco. Quindi è un'esperienza positiva, positiva, diciamo. Il rapporto con la redazione di Anagni? Il rapporto con la redazione Anagni è buonissimo, diciamo che passiamo quasi un po' di ore della giornata insieme, ecco, si può dire, quindi in contatto, diciamo. In contatto, sì, sì, quindi si commenta, si parla, nel frattempo si lavora anche, perché insomma certo. Bisogna anche soprattutto lavorare. Ecco. Oh, tu ti dedichi pure allo studio, tra l'altro. Sì, mi dedico allo studio. In che cosa sei impegnato? Al secondo anno di giurisprudenza. Quindi riesci a coniugare le due cose? Sì, riesco, mi organizzo, ormai devo dire i primi tempi era un po' difficile, ecco, però poi piano piano l'organizzazione, pure la forma mentis appunto si è adattata e per fortuna siamo riusciti, ecco, a cercare di coniugare le due cose, certo. In modo tale di non tralasciare nessuna delle due, perché ambedue hanno la stessa importanza, ecco. Senti, quali sono gli argomenti che ti piace di più trattare? Ma gli argomenti sono tanti in realtà. Tra i miei preferiti, ecco, vi sono argomenti di natura culturale o storica, oppure molto interessanti sono anche quelli che danno voce ai cittadini, perché secondo me quelli sono più importanti dal punto di vista umano, proprio perché i cittadini riescono in qualche modo a proporre richieste, soluzioni alle loro problematiche, e dar voce a questi cittadini è una soddisfazione enorme, enorme per un giornalista o per uno, insomma, che scrive sulla stampa. Ecco. Ecco, il tuo futuro quindi come lo vedi, diciamo? Ancora impegnato nel contesto dell'informazione locale e ancora impegnato nello studio? Sì, il futuro immediato, sì, insomma, quello nella stampa, quello nello studio. Spero a maggio di poter dare anche l'esame per l'iscrizione all'albo dei pubblicisti, perché dopo due anni di collaborazione puoi per già legge, raggiunto, sì, diciamo, sì, questa possibilità, e quindi spero anche di riuscire a fare questo, ecco. Bene, Guglielmo, io che devo dirti, apprezzo molto il tuo impegno, perché voglio dire, sei un giovane, un ragazzo così impegnato nelle attività sociali, nell'informazione, nello studio, è credo una rarità, insomma, quindi ti faccio tutti i miei migliori auguri, quelli più possibili e immaginabili, diciamo, affinché questa tua attività si possa svolgere nel migliore dei modi. Io Marco ti ringrazio, ringrazio anche Radio Ernica che mi dà la possibilità di farmi conoscere da un pubblico diverso, dal momento che io lavoro per il pubblico della carta stampata, farmi conoscere anche dal pubblico sia di internet ma anche del pubblico radiofonico è un'esperienza importante, perché collaborazione tra sempre organi di informazione e sulla carta e sul via telematica o onde radio è comunque importante per sempre per il bene dei cittadini, che insomma da noi hanno l'informazione su quello che accade, ecco. Beh, ecco, inutile dirti che ci farebbe molto piacere se le tue visite anche nel futuro siano più frequenti, diciamo, perché ci fa molto piacere ascoltare anche il tuo punto di vista. Grazie, sarebbe un piacere anche per me, insomma, è una proposta che accetto molto volentieri. Bene, Guglielmo, allora noi abbiamo fatto praticamente due ore di diretta, perché abbiamo iniziato poco prima delle 17:15, quindi quasi due ore di diretta con praticamente tutto questo contenitore, abbiamo messo un po' di tutto, notizie, curiosità, informazione e quant'altro, quindi siamo arrivati, diciamo, al termine di questo spazio e ringrazio tutti voi che ci avete seguito, faccio un saluto alle persone che ci riascolteranno domani in replica, ringrazio di nuovo Guglielmo Cecilia di Ciociaria Oggi e terminiamo qui questa puntata, a risentirci. Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai.